sale degli eroi. No, non voglio più passare in piazzale degli eroi. No, non voglio più passare in piazzale degli eroi. Troppi pochi soldi in tasca per poter spiare voi. Mia madre è chiusa dentro la lavatrice, e mio padre è chiuso dentro nel suo ufficio, e gli amici tutti nella zona B, tutti nella zona B. Mi hanno scritto, stanotte hanno fatto un altro muro, e dietro l'altro muro un altro muro, e dietro l'altro muro un altro muro. Io non posso più passare in piazzale degli eroi. Non voglio più passare in piazzale degli eroi. Zona A può andare avanti stasera, la zona B può andare indietro, la zona C può andare in alto, e la zona D può andare solo sottoterra. No, non voglio più passare in piazzale degli eroi. No, non voglio più passare in piazzale degli eroi. Il presidente che fa? Col 130, dopo aver aperto ospedali e scuole materne, lui si rivolge al pubblico dicendo: figlioli, fratelli, compagni, defunti. Voglio più passare per piazzale degli eroi. Troppe scritte nere, nere sui muri. Oh.